Time. Blue Time. Blue Time. Buonasera a tutti, amici di Blue Radio Veneto, 3 minuti dopo le 21 di questo mercoledì 6 marzo 2013. Gilles Facchinelli e Maurizio Calzavara. Ciao Maurizio. Buonasera Gilles, buonasera ai nostri ascoltatori. Ecco, questa sera è una serata un po' piena, piena, molto piena, come piena. Si dice. Abbiamo prima di tutto, tra pochissimi minuti, gli After Hours. Maurizio? Sì, abbiamo Giorgio Brett, che è uno dei componenti storici, il batterista storico degli After Hours, per una breve intervista. Lui ci parlerà del tour che hanno cominciato a Bologna, sarà una tappa anche a Marghera, quindi fra sabato parleremo di questo e soprattutto una cosa importante, la realizzazione su vinile di Padania, cosa strepitosa. Il secondo appuntamento, una persona veramente, un artista simpaticissimo che avremo modo di conoscere questa sera con un'altra telefonica, che è Francesco Sportelli. Terminato alle 22, perché posticiperemo appunto la chiusura della telefonica con Francesco, abbiamo la band, i Novalisi stanno già predisponendo, io come sempre sono nella fossa di leoni, stanno già predisponendo tutto davanti, batteria, tastiere ed altre cosette. Dalle 22:10 circa, con Sergio alla conduzione in regia, ma ci sarà sempre Gil che girerà con le fotografie eccetera eccetera eccetera. Ecco, allora io direi, Maurizio, sì, cominciamo con gli After Hours. Cominciamo con questa tempesta, gli After Hours, questo disco Padania bellissimo che ha ricevuto un sacco di premi. Buonasera Giorgio Prette. Ciao, buonasera. Ciao, come stai? Bene? Bene, bene, voi? Bene, bene, grazie, benissimo. Parliamo di questo Club Tour 2013 iniziato alla grande all'Estragon di Bologna. Cosa dici? Sì, sì, beh, è andata bene, non ci possiamo assolutamente lamentare. Siamo partiti subito con una data tosta, ma importante, ma almeno ci siamo subito messi alla prova, Sì, non c'era bisogno, però secondo me, in ogni caso. Club Tour 2013 è un tour importante. Perché importante? In ogni caso sareste fra 2 giorni al circolo Rivolta a Marghera, quindi sabato sarete a suonare là. Però è importante perché segna anche praticamente verrà stampato un vinile su Padania. Cosa dici Giorgio? Com'hai questa bellissima iniziativa? Ma guarda, era un'idea che avevamo preso in considerazione già sull'uscita del disco, però chiaramente volevamo farla in un secondo tempo e adesso è venuto il momento e l'occasione giusta, anche perché abbiamo trovato questo accordo con Rough Trade per la distribuzione, per pubblicarlo e distribuirlo in Europa, e quindi uscirà questa versione in vinile in Spagna, in Francia, in Germania, in Benelux e ovviamente anche in Italia, e quindi questa sarà l'occasione anche per fare un giro in Europa una volta finito questo Club Tour. Esattamente, il vinile verrà pubblicato in Italia martedì 2 aprile con un numero di 500 copie numerate. Molto interessante. Siamo molto felici perché comunque il vinile è un'occasione per un'altra occasione per realizzare un bel oggetto. Esattamente, perché il vinile si sente, si respira, c'è l'anima nel vinile, dicevano una volta. Adesso poi c'è stato il CD, poi c'è un ritorno al vinile, una cosa meravigliosa. Io ho una certa età, amo particolarmente il vinile, chiaramente. Anche io. Sappiamo di cosa stiamo parlando. Poi ovviamente nel momento in cui c'è una scelta di questo genere, chiaramente siamo stati attenti e meticolosi nel farlo nel modo migliore possibile, sia dal punto di vista del peso del vinile che... Quindi è una qualità. Cosa fatta bene, come ricercata, sì. Un oggetto da collezione, possiamo dire. Sì, assolutamente sì, e poi sai anche che appunto in quel formato anche tutta la veste grafica assume proprio un'altra rilevanza rispetto alla dimensione del CD, dove la copertina, insomma tutto il lavoro grafico è molto sacrificato. Parlando di Padania, è stato un disco che ha avuto un sacco di premi, oltre al successo discografico decisamente importante. Avete vinto la targa Tenco come miglior album dell'anno, la targa Indie Music Like, il premio come After Hours come artista dell'anno, una roba meravigliosa, George. Sì, abbiamo fatto Mambassa. Ah, esatto, avete fatto Mambassa, è vero. Sì, abbiamo riempito la bacheca. Esatto. No, siamo molto contenti, chiaramente è molto gratificante, tutti questi riconoscimenti sono molto gratificanti, da un certo punto di vista, in particolare non per paragoni o togliere qualcosa agli altri, però la targa Tenco è fondamentale. Sì, anche perché esteticamente insomma guarda la canzone d'autore italiana, e quindi è abbastanza una novità che venga attribuito un premio come miglior disco in quel contesto a una rock band, quindi vuol dire che quando viene riconosciuto il contenuto, la sostanza, insomma è molto gratificante. Sì, certamente la rock band per antonomasia gli After Hours, secondo me. Giorgio, tu sei uno dei componenti storici, non propriamente storico perché non l'hai fondata te la band, ma praticamente sei storico a metà o al 90%, Giorgio. Beh sì, direi al 90%. Ecco, 90%, esatto. Tu sei entrato pochi 90. Anni dopo il 92, chiaramente. No, nel 90 sono nel 90, entrato. Ecco, quindi appena dopo 4 anni dell'uscita, dalla nascita da parte di Manu della band, praticamente. Sì. Quindi è una cosa importante. Questo disco è stato inciso per una vostra etichetta, la prima realizzazione. Sì, è la prima volta, praticamente diciamo che rappresenta un po' la chiusura del cerchio, nel senso che noi siamo nati, cresciuti con questa attitudine, no? Quella del fai da te a 360 gradi, quindi ci sono stati all'inizio degli anni della Vox Pop che erano comunque molto improntati su questa concezione, poi certo. Sono stati tutti gli anni della Mezcal, esatto. Che era una situazione comunque di etichetta indipendente, quindi con un certo tipo di dinamiche. Fin da quell'esperienza c'è stata l'occasione ed è capitato il momento ideale per fare l'esperienza con la Major, e poi siamo ritornati da soli quasi subito prima di andare a Sanremo, e adesso quando ci siamo ritrovati a prendere decisioni rispetto alle offerte che avevamo avuto o se fare tutto da soli, abbiamo scelto di fare tutto da soli perché erano due scelte in bivio, nel senso che ognuna delle due opzioni aveva, come spesso accade nelle scelte fondamentali, dei pregi e degli svantaggi, quindi certo. Sì, chiaramente questa scelta implica una maggior mole di lavoro e anche di responsabilità, anche solo dal punto di vista economico e di gestione di tutto il progetto, però dà anche quella totale libertà, non tanto l'abbiamo sempre avuta, però la libertà totale in qualunque momento di poter cambiare, anche di fare un momento, no, sì, anche proprio nella gestione del progetto, certo, per tutto certo. Quello che riguarda la promozione, il marketing, le iniziative da scegliere, le strade da prendere, come fare il live e che tipo di collaborazioni fare, insomma tutte queste cose, che avere una libertà totale di azione anche dal punto di vista proprio temporale è una cosa molto importante, soprattutto per un progetto come il nostro, che dopo tutti questi anni abbiamo comunque un pubblico, una base per cui... Una base tosta, Giorgio, e non soltanto una base che si è allargata con Padania, si è allargata moltissimo, possiamo dirlo. Beh, dai. Questo ci può far solo piacere, perché è un disco comunque non proprio... Non facile, non facile. Prima ascolto. Esattamente. Tutto il ritorno che è arrivato e che continua ad arrivare con questo disco è chiaramente dà ancora più soddisfazione. Quindi Club Tour 2013 si è partito da Bologna, poi ci sarà Marghera, cioè il Circolo Rivolta, poi altre date fino ad arrivare al 30 aprile mi pare a Perugia, quindi una bella serie di date toste, come sempre la musica degli After Hours. Dal vivo è la cosa essenziale, suona dal vivo, Giorgio, cioè c'è poco da fare. È la nostra carta d'identità, c'è poco da fare. Esatto, esattamente. Benissimo, grazie Giorgio per l'intervista, ci sentiremo qualche altra volta. Ricordiamo allora sabato prossimo a Marghera al Circolo Rivolta gli After Hours col Club Tour 2013. Grazie Giorgio e a risentirci. Grazie a voi, ciao a tutti. Ciao, grazie. Ciao Giorgio, grazie, ciao. Ciao.